peggio ogni difetto, ogni vizio di natura, e il fornisce di benetto la più brutta creatura. Combinare il falle rozze, schiaccia gobbe a piana pozze, ogni incomodo tumore, colpe sì che